fritti. Centosessantadue. Fritto di pasta ripiena. Prendete la pasta numero 212 oppure la pasta sfoglia numero 154, distendetela alla grossezza di uno scudo, tagliatela a dischi smerlati della grandezza all'incirca di 5 cm, ponete nei medesimi il ripieno del numero antecedente, copriteli con altrettanti dischi della stessa pasta, bagnandoli all'ingiro affinché si attacchino insieme, friggeteli e serviteli caldi.